Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà ta femme. Sono sempre stato molto interessato dalle follie dei mistici. Mi piace leggere la vita dei santi, soprattutto di quelli che hanno visioni, soprattutto di quelli che riescono a staccarsi dalla realtà, di quelli che si macerano, si torturano e poi astraggono. Vedo grandi cuori trafitti, laghi di sangue e figure ieratiche che li prendono, li portano, li tirano per i capelli e li portano in un altro mondo. Ma perché fanno questo? Perché la maggior parte della mistica che noi conosciamo, che è ambientata in un arco di tempo che va dal 200 al 600, poi abbiamo, diciamo, delle ultime versioni negli ultimi secoli, ma sempre più pallide e meno caricate di questa fantastica iconografia, nasce da persone che avevano come unico supporto al loro immaginario, supporto iconografico e narrativo, le rappresentazioni del sacro. Entravano nelle chiese, guardavano le statue, osservavano queste raffigurazioni, e quando a loro andava, per qualunque maniera, torturandosi, macerandosi, pregando, mortificando la loro carne, mirando alla astrazione, quindi all'assoluto, e venivano corroborate il loro momento di fuga e di elevazione da queste immagini. Questo vedevano e questo naturalmente rivedevano nella loro estasi mistica. Oggi in realtà noi siamo un po' meno contaminati da quel tipo di immaginario, ma siamo allo stesso tempo toccati da un'infinità di altre immagini. Voi pensate da quando nasciamo, i racconti dei nostri genitori, le figurine degli album che ci davano da bambini, i libri della nostra prima infanzia, poi è venuta la televisione, poi è venuto il cinema, poi sono venuti i giochi informatici, poi sono venuti i computer. Insomma, ci sono un'infinità di macchine della fantasia, di macchine dell'immaginario. Queste macchine hanno una funzione molto precisa: devono darci dei supporti iconografici grafici potenti, perché nei momenti in cui noi desideriamo l'astrazione, ci eleviamo dal mondo concreto, abbiamo bisogno di qualche immagine per costruirci dei nostri universi. Di cosa sono fatti i nostri sogni, a parte gli incubi, a parte le visioni familiari, a parte le nostre paure, le nostre ansie? E diamo un attimo un calcio a tutto ciò che la psicanalisi ci ha insegnato che noi dobbiamo sapere. È fatto di queste piccole immagini dell'infanzia, poi crescendo le immagini dell'adolescenza, poi le immagini dell'età matura, poi le immagini che via via raccoglieremo. Noi dentro siamo una sorta di galleria immensa. Beh, quali sono gli strumenti del vostro immaginario? Su cosa sono basate le vostre più fantastiche ore di fuga? Perché guardate, la fuga interiore corrisponde a un momento fortemente liturgico, il momento dell'ansia verso l'assoluto, il momento della estrema trascendenza. Oggi è data, per chi lo fa, per chi può, per chi ha fede, per chi ci crede, dalla preghiera, dalla meditazione, dai momenti di culto collettivo, ma i tanti culti individuali, le trascendenze personali, le maledette trascendenze personali, che probabilmente non hanno dei, non hanno al di là, ma hanno soltanto voglia di astrarsi al mondo, di cosa sono fatte? Per qualcuno sono fatte di fumetti, per qualcun altro sono fatte di videogame, per qualcun altro sono fatte di racconti, di romanzi e via dicendo. Questa mattina questo è l'argomento, di questo vorrei parlare. È difficile, ma se ci riflettete un attimo, ho con me il fiorfiore degli esperti dell'immaginario, della fuga dal mondo, della follia, e quindi cercheremo assieme a coloro che ci ascoltano a creare una sorta di vademecum degli strumenti di fuga dal mondo, di fuga dell'immaginario. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Ho sbagliato a presentare prima te, ma l'ho fatto per mortificarti. Barbara Alberti, buongiorno. Buongiorno. Devo presentare prima l'Alberti, che è una signora, ma io in questo momento ce l'ho un po' con Sansonna, lei sa benissimo perché. Alberti Sansonna mi è stato rapito dall'Alberti, è stato portato dall'isola di Finisterre, nel faro di Finisterre, e Barbara Alberti, che è in collegamento da Finisterre, naturalmente sentite la voce piuttosto lontana e ovattata, ha preso, rapito Sansonna e lo usa per la sua trasmissione. Io che pensavo di essere l'unico esclusivo padrone di Sansonna, che stava al guinzaglio della mia trasmissione, me lo vedo portato ed esportato. Quindi, però, non avendo nient'altro sotto mano, questa mattina parto con Giuseppe Sansonna. Giuseppe, io che ti ho impropriamente presentato come un grande esperto di cinema e tu mi hai miseramente tradito, e sto in questo momento inanellando un'altra storia nella storia per dare supporti fantastici agli ascoltatori, quanto il cinema nella sua storia ha cominciato a sostituire immaginari precedenti? Beh, il cinema, nascendo alla fine dell'Ottocento, recupera in fondo la stessa dimensione sacrale della Chiesa, la penombra, la luce che appare. Le liturgie sono molto, molto simili. Una macchina di visione. Una macchina di visione e di fuga. Già allora, già nel nascere tridimensionale, già dai Lumière, già l'uscita dalla fabbrica delle operaie è già pura tridimensione, già evasione pura in questo. Però, partendo dal biografico, no? Invece i fumetti, no? Tu citavi i fumetti, per me prima del cinema sono stati la fuga di evasione personale più forte. Io a 8 anni sono andato via da Asti perché mi sono trasferiti a Bari, una realtà cruda e violenta per me mi ha fatto sì che mi rinchiudessi in me stesso e mi dedicassi solo ai fumetti, e già allora fumetti come Corto Maltese erano la pura evasione, erano andare in un altrove che mi affascinava, insomma. Barbara Alberti, non so se mi ha seguito in questo mio arrovellato discorso. Io sono convinto che in realtà noi siamo le nostre letture, i nostri interessi, i nostri giochi fanciulleschi, le nostre manie adolescenziali, le nostre perversioni senili e via dicendo. Lei, che di cui la produzione poetica letteraria che più mi ha affascinato è I ricordi dell'Umbria, che abbiamo condiviso, Le memorie malvagie, I bambini a due teste, Le vecchie che nascondevano i bambini per farne l'angelo della loro rappresentazione nell'armadio, tutte quelle cose che lei racconta mirabilmente nella sua trasmissione della Guardiana del Faro, quanto poi hanno contribuito alla Barbara Alberti scrittrice, che poi ha investigato e scandagliato orizzonti molto più ampi di Umberti, dell'Umbria. Però la radice è sempre quella, il punto d'occhio nasce sempre da l'imprinting delle prime letture e primi racconti. Senta, Nicoletti, grazie della presentazione della domanda, però scusi, prima vorrei confutare l'accusa di furto che mi ha fatto. Io non le ho rubato Sansonna. Intanto Sansonna non è un ombrello, tanto per cominciare. E poi scusi, tipico del possessivo, io le ho detto potrebbe prestarmi Sansonna per delle voci, lei ha detto ma sì, lo prenda, tanto lui appartiene a me. Ma io pensavo un uso moderato, con uno Alberti. Scarabeo per la zampetta attraverso un filo di seta, quindi questo è il fatto. Sono adesso come il golem che è sì, il suo creatore. Mi spiace un pezzo, però non vorrei uscire dal seminato. Alberti, no, allora le rispondo, è stata devo dire, è stata un'infanzia veramente panica, nel senso più forte del termine, in quanto noi vivevamo in un clima, e lei lo sa bene perché anche tutto quello che lei ha fatto, anche tutta la sua ispirazione, risente fortemente di questo, è stata una grande ricchezza poetica, perché io ricordo, intanto avevamo delle belle paure totali, perché noi eravamo bambini dell'Ottocento, io parlo che sono più vecchia di lei, eravamo proprio bambini dell'Ottocento, la televisione è arrivata quando noi sapevamo già leggere e scrivere, quindi il più era fatto, noi vivevamo tra Pollicino, cioè tutte queste fiabe terrificanti con l'illustrazione del Dorè, dove si vede chiaramente l'orco che sgozza le sue figlioline perché l'astuto Pollicino ha cambiato, e quindi laghi di sangue, questo Cristo terrificante, pieno di ferite, pieno di tutto nudo, rappresentazioni barocche, e pieno di sangue, certo. E poi eravamo anche sempre ubriachi noi bambini, perché adesso se una nonna s'azzarda a dare un dito di vino al bambino si chiama il telefono azzurro. Ai miei tempi io mi ricordo che dicevano il vino fa buon sangue, la mattina ci davano la canaiola, che era un vino toscano dolce, con i biscotti con lo zenzero, certo, noi alle 10 eravamo già fatti come certo. Oche, altro che Mick Jagger. Il pomeriggio l'altra nonna bigotta, che però distillava come una matta, aveva il nocino, il mandarino, 45 gradi, ci diceva vieni qua il micocco che ti fa lo zabaione, e sullo zabaione ci aggiungeva il vov e zabaione, che io non ricordo mai di aver passato sobrio un giorno della mia vita. E poi c'era questa immanenza della fine del mondo, era lì proprio, bastava che tu tirassi la coda al gatto o guardassi il culo a tuo fratello ed eri già l'inferno, in questa orgia di diavoli con i forconi. Quindi il primo strumento, diciamo, il primo supporto della narrazione erano i racconti delle vecchie, delle sì. nonne, dei parenti, prima ancora di leggere già sì. avevano dato gli strumenti. Sentiamo qualche ascoltatore, abbiamo già qualcuno al telefono. Valentina, hai capito il senso della nostra trasmissione, dici sì. i tuoi supporti dell'immaginario, laddove tu hai cominciato a perdere il possesso della tua anima. Allora, i miei supporti all'immaginario sono, da un lato mi rendo conto la lettura in quanto tale, che mi astrae, mi consente un'astrazione completa dal mondo immanente, e la mia testa va, viaggia appresso a quello che sto leggendo, dimentico qualunque cosa, qualunque cruccio, è forse l'unica cosa in grado di anestetizzarmi completamente dal mondo circostante. Quindi leggi con passione perché la lettura ti porta via, non è che leggi. Leggo con estrema passione perché la lettura mi porta via. Quindi il libro è come il VOV per l'Alberti quando era bambina, è la sostanza psicotropa che ti allontana dal reale. Sì, questo per quanto riguarda, se posso, una fuga individuale. Poi c'è anche una fuga collettiva alla quale mi dedico, che è il canto corale. E io mi rendo conto che quando inizia un'esecuzione di Bach, quando inizia un'esecuzione vivaldiana, lì partiamo tutti quanti per la tangente. È un rincorrersi in lungo derive lontane dal sfiori l'acne quando senti cantare Bach. Esatto, e quando anche lo canto io. Ecco, mi dici che libri leggi? Perché detta così, Valentina, ascoltatrice, sembra un po' che tu abbia preparato un compitino di cose buone da dire. Poi magari in realtà sono ben altre i supporti della fuga. Però io tengo a dire che do fiducia ai miei ascoltatori, quindi credo tu fai ottime letture e ascolti musica classica. Ma mi dici esattamente cosa leggi e da cosa fuggi quando leggi? Le mie letture non sono ottime in senso stretto, prevalentemente quello che mi induce alla fuga è roba estremamente cruenta, come se io potessi poi risvegliarmi dal tutto con serenità. Storie di vampiri, mostri? Horror, anche romanzi nei quali la natura umana non rivela il meglio di sé, ecco. Letteratura contemporanea, ma non letteratura in senso dotto, quello no. Giuseppe Sanzon, devi aggiungere qualcosa a quello che diceva Valentina? Mi ricordava quello che diceva Barbara prima, lo spavento come attinente a qualcosa di legato alle storie umane, alle vicende raccontate, tramandate dalle nonne, mentre per me, per la mia generazione, io sono del 77, il primo spavento non è legato alla realtà ma all'immaginario cinematografico, l'immagine di Klaus Kinski, vampiro erzoghiano che appare e non appare nello specchio, per me è che affonda i denti, i canini affilati nella carne della vittima di turno, è il primo spavento reale dell'infanzia, della prima infanzia. Questo è curioso, no? Come sia cambiato. No, io sto osservando un'altra cosa, quanto lo scorrere del tempo implacabile ti colga. Quando senti i racconti di un'altra persona ti accorgi che lui da bambino guardava Klaus Kinski, ero già adulto, grande, coi baffi, avevo fatto l'università e tutto. Quindi anche la collocazione cronologica degli strumenti, dei supporti dell'immaginario ci dà un segno fatale del passare dell'esistenza. Sì, però bisogna dire che per esempio ai miei tempi avevamo da una parte tutta la parte arcaica della fabulazione serale, però d'altronde eravamo già figli del cinema. Io ricordo anch'io le prime paure grandi, oltre le fiabe e le storie tremende cattoliche, era il cinema, era il mare. Io avevo sempre paura che il mare si riversasse nella sala, oppure Totò. E adesso è finita a mezzo all'oceano. Pensi sì, il terrore per me era la faccia di Totò, io lo trovavo terrificante. Comunque la nostra era una paura catartica. Oggi la paura della televisione è imitativa e non c'è trasfigurazione e non c'è grazia e non c'è, perché dopo, voglio dire, con un'infanzia così, per forza che si diventa lei affabulatore radiofonico, io scrittrice, voglio dire, per forza. Sentiamo Barbara da Pistoia. Barbara, buongiorno. Ciao Gianluca. Allora, senti, la mia fonte d'evasione principale è sempre stata la musica, fin da quando ero ragazzina. Pensa che io a 17 anni andavo a fare la babysitter per raccogliere soldini e poi poter entrare in studio di registrazione e produrre i dischi dei miei amichetti. Entravo in questi studi di registrazione che sembravano astronavi e cioè io proprio mi sentivo come in un altro mondo. È stata anche la fonte della mia disgrazia scolastica, perché tutti gli anni puntualmente venivo rimandata in greco e latino, perché appunto mi dedicavo più a queste cose. Ma il bello delle passioni, Barbara, è proprio questo, non essere distruttive delle cose eticamente giuste, se no non c'è evasione, nessuno evade studiando. La mistica del secchione dice: ah, quanto mi piace studiare, mi appassiona lo studio. Vero, non è vero, finge, è simulazione, è soltanto egocentrismo, è dimostrazione di quanto lui è diverso, migliore, superiore agli altri. In realtà le cose che danno più gusto sono quelle che fanno più male, guarda caso, l'alcol fa male ma dà gusto, tante altre cose fanno male ma danno gusto, e anche penso che quella che era considerata l'attività di massima trasgressione rispetto allo studio era quella che ti permetteva invece di volare leggera sopra le altre persone. Ma ed è verissimo, perché poi io la sera mi vestivo tutta, mi rinfighettavo e andavo ai concerti a concupire il cantante underground di turno. Cioè facevi da gruppi? Facevo la gruppi, però dei gruppettini, diciamo, di serie B, perché non potevo ancora ambire ai gruppi quelli famosi. Però tutto questo alla fine mi ha portato questa passione, appunto. Cioè, ma arrivavi all'intima d'azione solo per passione di questi cantanti? Assolutamente. per passione della musica, cioè io sono arrivato a concupire anche dei cantanti che non mi piacevano magari esteticamente, però perché erano lì e rappresentavano. Sai, è un po' il segreto. Io raccolgo spesso le confessioni di amici doppiatori, di cui non faccio i nomi perché spesso collaborano anche in questi studi, che mi raccontano, ma sai, la grande botta di vita di quello che fa la voce di Clooney o quello che fa, adesso dico a caso, l'altro attore che alzano un sacco di belle donne, dicono: com'è possibile? Ma pensa, uno questo lo vedi, è un cicciotto, niente di che, l'altro è uno stempiato. Però sai, nella penombra e soprattutto in certe collocazioni che venivano dai nostri confessori chiamate more ferrarum, se lui parla può sembrare che è Clooney, e quindi questo atto di possessione, supportato, vedi, da un supporto dell'immaginario fondamentale che è la voce di un attore, può far sì che un pelato schifosino sudaticcio, soltanto perché ha la voce di Clooney, possa possedere una donna favolosa. Alberti, perché ride? No, rido perché mi piace. No, ma io perché la immagino, perché mentre lei così parla è come Otello e Desdemona. Otello che racconta le sue pene e Desdemona che si innamora, anche se Otello era moro, era l'indicibile, l'ignoto in Shakespeare, però insomma moros e deformosa. Però vedi quanto però corrispondono i domini che noi stiamo lambendo. La voce di un attore famoso è la voce del supporto, l'immaginario, per evadere, per fuggire, per riempire gli spazi di vuoto e vuoto l'evasione. L'ascoltatrice ci dice che lei da ragazzina andava dietro ai cantanti, anche non esteticamente appaganti, ma solo perché era attratta la loro voce. Il doppiatore, che è l'essere umano che si infila nei pertugi più nascosti dei supporti dell'immaginario, come fanno tanti, tante predicazioni, credi politici, sono basati solamente sulla comunicazione, su ciò che è di più fittizio, sui simboli che trascinano le folle. Ecco, per la stessa ragione, lui ha una voce che gli ha dato la natura, quindi è fortunato, ma caricata del significato simbolico, la voce di un grande attore, di un supporto del maggiore, lo fa usufruire piacevolmente e indebitamente, non avrebbe diritto, di piaceri carnali illeciti. Adesso sento la femminista che è in me, che io cerco a scoppoloni di buttare via, perché da quando mi ha mandato al faro cerco di essere sobria, però essa insorge e dice e pensa: ma guarda però come comunque noi siamo veramente creature sognanti, noi donne, e come è molto più frequente che ci lasciamo sedurre da qualcosa, possiamo, noi ci raccattiamo chiunque, mentre invece una racchia anche con tantissime qualità di altro genere difficilmente nell'ombra inganna un gruppi. Ma tempo fa noi facemmo con Sansone una trasmissione su alcuni eroi coatti deleteri, come appunto Rocky e Rambo. Le ascoltatrici, ricordo Giuseppe, chiamarono dicendo che la cosa che più apprezzavano di Rocky, lui era bello, forzuto, vincitore, e si era preso una ragazza che in realtà era banalmente era romantico, che parlava a queste due tartarughe. Poi vince per questo Rocky su Rambo, perché Rocky si dedica a una donna che per stereotipo di narrazione non era, che non starebbe nelle copertine, cioè, di un giornale. Comunque Schopenhauer cercava di rovesciare questa cosa dicendo che bisogna lasciare le donne belle agli uomini senza fantasia, no? Perché lui cercava appunto l'innamoramento. Magnifico, me lo voglio tatuare, grazie. Allora, abbiamo il telefono Lorenzo, buongiorno. Sì, salve Gianluca. Vediamo se un uomo ci riesce a corroborare con strumenti e supporti dell'immaginario più legati anche all'altra faccia del punto di vista rispetto alla realtà, che è quella maschile. Eh sì, curiosamente ascoltavo l'amica che mi ha preceduto, e io non che mi discosti poi molto, nel senso che nella professione che svolgo, io sono avvocato, spesso vengo a contatto con un ambiente davvero fighetterrimo, molto aperitivizzato. Soprattutto raccontare cazzate, quindi racconti fa parte del tuo mestiere. Quello sicuramente, insomma, della cazzata noi facciamo. È chiaro, strumento di lavoro, ma lo dice a me che conduco la trasmissione alla radio, figurati, è il mio pane in quotidiano. Tuttavia, vedi, io prima di diventare avvocato, per anni, e questo anche ha comportato un ritardo nella laurea, io insegnavo chitarra elettrica, e il mio sogno, o meglio, il mio obiettivo era quello di diventare un chitarrista. Quindi, comunque, la mia profonda evasione tutt'oggi è quella di tornare poi la sera, attaccarmi all'amplificatore e sognare di essere Edward Van Halen. Quindi comunque per me è un mezzo che... Quindi vive una doppia vita te? Certo, una doppia vita, e infatti anche ho un gruppetto rock blues, suoniamo, e questo in un certo senso magari mi fa differenziare dai miei colleghi, ma non per questo io mi sento ovviamente superiore a loro o quantomeno... Certo Lorenzo, tu forse... La tua passione giovanile ti prende talmente che non tieni d'occhio gli strumenti contemporanei di esaltazione dell'immaginario. Oggi facendo l'avvocato già tu saresti il supporto reale. Quante fiction ci sono, telefilm americani di avvocati super figherrimi con super gnocchi accanto, super cinici, che potresti benissimo impersonare e avere un grande successo. Giuseppe Sanzone, aspetta. Ma ci sono anche quei videogame oggi che con una chitarrina di plastica, sì, tu schiacci tre tasti e sei dentro il concerto proiettato sullo schermo. Sono una sorta di videogame iper sofisticati che ti proiettano in questi club fumosi londinesi e ti danno quest'altra vita, quest'altra chance. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Quella vedi è la scuola. E tu ci vai? Quando piove o quando fa freddo, grullo. Anche a me non piace andare a scuola. E bravo testa di legno. Il mio babbo m'aveva fatto di legno, ma la mattina dopo, appena mi sono alzato, mi sono trovato bambino. E io sono nato sotto un cavolo. Davvero? Sì, sotto un cavolo dell'orto. Non ci credo. E io devo credere. È singolare perché tutte le volte che noi vogliamo parlare di supporto dell'immaginario condivisi con altre persone, perché la vera ragione del supporto dell'immaginario, la sua vera forza, la sua capacità di trascendenza è il fatto che lo condividiamo con altre persone. Dei supporti solitari, individuali, autistici non portano a nessuna parte. Qualcosa che sentiamo ispirare tante persone ci porta lontanissimo, appunto Pinocchio. Pinocchio stracitato, strainventato, strareinterpretato in maniera schifosa, e tu Sansonna puoi dirmene qualcosa. Ma io mi muovo tra due Pinocchi, questo è quello di Comencini, meraviglioso, che riguarda la mia infanzia biograficamente e che ha due Gatto e la Volpe straordinarie, le due forze cispose del passato, Franco e Ciccio, che concupiscono, lo portano nell'orto dei miracoli, questo Pinocchio Balestri che io ho anche conosciuto, l'ho visto oggi a Diposo, sembra Homer, lo so, deluderò un po' gli ascoltatori, però i bambini prodigio allora dovrebbero avere la virtù di morire nel momento del loro anche fulgore. Jackie Coogan, esatto, che era lo zio Fester, era lo zio Fester degli Adams, Jackie Coogan, il monello, dicevi, il monello è diventato il mostro nei film, nei telefilm, sì, dell'orrore, esatto, diventa un cortocircuito incredibile. Poi l'altro Pinocchio è quello di Carmelo Bene, terribile, che subisce le angherie sadomasochistiche della fatina, e addirittura nel primissimo Pinocchio c'era proprio una concupiscenza in scena, sul palco avveniva, quindi fra questi due Pinocchi si muove il mio immaginario. E poi c'è il Pinocchio di Benigni. Ah, quello è il tuo, quello è luttuoso, è mortuario, sì. Molto, è una cerimonia funebre, sì, magniloquente, ecco, insomma, prende tutto il noir di Collodi, ma senza grazia, senza vita, senza, sì, movimento. Era molto più Pinocchio lì quando era sdrucito e punk da giovane Pinocchio. In Berlinguer ti vanno bene, è Pinocchissimo, è Pinocchissimo quando ricerca la madre, Fatina Turchina, attraverso un'imprecazione che dura mezz'ora, capito? Lì era veramente Pinocchio. Invece adesso siamo un notaio vestito dallo da Pinocchio. Dallo spirito è passato alla lettera. Certo. Soprattutto il Gatto e la Volpe, i Fichi d'India, che sono i comici dal punto di vista artistico che detesto di più nella mia esistenza, che sono delle vere e proprie castrazioni ogni immaginario. Rivedere fare la parte di Franco Ciccio l'ho trovato veramente bestiale. Comunque, se vogliamo parlare dell'appunto del nostro modo di della come ha parlato lei, dell'ispirazione, della trasfigurazione, dell'uscire da sé, naturalmente la scrittura è un gran mezzo, come tutte le attività artistiche, perché finalmente non sei più la creatura limitata. Cioè, a me è come se mi riscattasse da tutta la mia pochezza, da tutte le mie stupidità, voglio dire. Esci da te e qualcuno ti racconta, qualcuno che sei occasionalmente tu, che sei uno strumento, ti racconta una storia. Però devo dire che a volte non è soltanto uscire da sé, a volte è entrare nelle cose. A volte, per esempio, io ho veramente dei grandi viaggi pulendo la casa. Non è un hobby, lo facciamo perché è necessario. Sta parlando dire a nomi di casa. Quindi. Appunto, no, sì, ecco, lei mi capisce, Nicoletti. So, e lei lo sa benissimo. La vertigine della avere i piatti. La vertigine dell'entrare in contatto terra, proprio il rapporto intimo col parquet, il ristabilire un equilibrio tra le cose. Riesce sempre. Quando scrivi un articolo, magari a lei riesce sempre, ma anche mettersi davanti a un microfono e dice: mio Dio, ci riuscirò. Quello è una grande, io le idee migliori le ho sempre. La ramazza non dà ansia di prestazione, questo è il senso. Sì. Ecco una cosa, poi lei ha parlato di scrittura, Alberti, però dobbiamo fare dei distinguo molto crudeli. Ognuno si sente in diritto di poter scrivere, ognuno pensa di poter appesantire il prossimo con le proprie opere, con le proprie esercizi di scrittura. Quante volte in realtà quello che dovrebbe essere un esercizio individuale lecito, permesso a tutti, anzi auspicabile, diventa un peso insopportabile per gli altri? Lei quanti libri hanno mandato illeggibili? Quante persone hanno detto: mi leggi per favore il mio manoscritto, via dicendo? Ecco, in questo caso ciò che dovrebbe essere strumento di fuga, di trascendenza, diventa il più grosso macigno che ci affonda nel profondo degli oceani. Ma questa è una cosa molto moderna, in cui tutti dobbiamo essere protagonisti e attori al centro della scena, perché gli italiani, e comunque, hanno sempre scritto, perché scrivere, tenere un diario, adesso purtroppo quando ti dicono ti chiedo soltanto di leggere, soltanto vuol dire che tu devi perdere, io sono lentissima nelle letture, sono un po' cieca, vuol dire che devi perdere una settimana e poi essere un boia occasionalmente. Io tra l'altro non mi fido di me, perché fosse venuto Joyce e gli avrei detto: senta, dia una stretta per favore, mi lasci 300 pagine, mi lasci Molly Bloom, e quindi avrei fregato un grandissimo genio conclamato, voglio dire. Quindi intanto non mi fido di me. E poi appunto, con che faccia gli dici: guarda, non mi piace? Tu sei, diventi il giudice universale. È una richiesta molto intima, terribile. Poi perché in nome di una lealtà che viene perseguita come stile di vita, uno può crearsi un problema nella vita. Perché l'aspirante autore che ti sottopone un suo testo e dici non mi piace, diventa il tuo peggior nemico. È immancabile che diventa così. Mi raccomando, sii sincero. Poi fa schifo, vorrebbe fa schifo. Ucciderti. Vorrebbe ucciderti. Sì. A volte capita, io ho conosciuto questo poeta sconosciuto che si chiama Umberto Polignano e mi sono trovata poi davanti a un capolavoro, perché una volta su un milione si viene anche ricompensati. Questo ha scritto Canzoniere dell'amore dell'inferno, un pazzo, 11 anni della sua vita a scrivere per una donna che lo aveva lasciato, ed è uscito fuori con quest'opera degna di Rimbaud. Giuseppe Sansonna, la stessa cosa accade, visto che stiamo parlando dei tentativi falliti, delle velleità nel campo dei costruttori dell'immaginario, anche nel campo del cinema, figurati, 100 volte di più. Sì, anche se poi a me piacerebbe ricordare com'è nata quella scaturigine dell'infanzia della passione per il cinema. Cioè, io guardavo i film di Sergio Leone da piccolo e pensavo che fosse la Puglia, nell'immaginario confuso e obliquo che si hanno da bambini. Poi ci ho fatto un documentario su questo. Beh, era l'Alto Lazio più o meno, era zona. No, di... spesso era anche l'Almeria in Spagna, ma io quelle facce sudate, ghignanti, quelle case bianche messicane mi ricordavano la mia Puglia, quindi c'era una sorta di commistione dell'immaginario. E lì anche, nello stesso momento, sempre parlando di materiali grezzi e poveri con cui costruirsi un immaginario, io avevo questo fortino di legno poverissimo che oggi farebbe ridere qualsiasi bambino, e con dei pupazzetti passavo ore a fargli fare dei dialoghi anche becchettiani, senza azione, non c'era azione fra i soldati, c'era dialogo continuo anche con i fucili sempre spianati, perché erano incastrati in una posa eterna, statuaria, questi pupazzetti, e quindi io li attivavo dei dialoghi infiniti fra di loro, deliranti spesso. Il problema è che le pelle rosse, ricordi, quando li disarcionavi da cavallo rimanevano le gambe arcuate e due piselline a infilare nei buchi della pancia del cavallo. Come fantozzi congelato quando lo scongelano attaccato al treno, ti ricordi quando lo... E quando morivano quelli col fucile in mano, rimanevano stecchiti col fucile in mano puntato. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti. I tuoi supporti dell'immaginario, come li coltivi e che uso ne fai? Ma un mio grande supporto per l'immaginario oggi, secondo me, è il videogioco. Ovviamente alcuni tipi di videogioco in particolare, cioè quelli che sono capaci di ricreare dei mondi dove immergersi in prima persona e vivere delle storie che, grazie al grande lavoro di scrittura che secondo me oggi certi programmatori riescono a fare, si riescono a fammi un esempio, così capiamo il genere, ad esempio. Ma se posso fare dei nomi di titoli, penso a Bioshock, non so se lo conoscete, piuttosto che a il recente Uncharted Drake, ad esempio. Quindi sono dei titoli che sono connotati da una forte ambientazione. Bioshock, ad esempio, è ambientato in una città fantastica, quasi ideale, costruita nelle profondità dell'oceano da un visionario, e io giocatore mi trovo nei panni di un visitatore che si trova su malgrado in questa città a combattere per sopravvivere e riuscire a scappare. Sì, sono tante, io ho in mente Silent Hill, che è stessa una città maledetta, certo, e via dicendo, un luogo. L'idea di riuscire a rappresentare finalmente le cosiddette realtà parallele, i tanti mondi che viaggiano in contemporanea al nostro mondo, è affascinante. La letteratura li ha rappresentati per quanto ha potuto, ma la realtà immersiva del videogioco in realtà permette un'avventura totale. Giuseppe, a Città di Castello di recente ho visto in una sala computer, c'erano 6 ragazzini che si davano convegno tutti i giorni per passare ore e ore come una pattuglia a giocare a quel gioco di guerra dove realisticamente squarti e ammazzi con come una forza di battaglia, appunto, e insultandosi fra di loro come in guerra vera, come un film di Vietnam, come Apocalypse Down, cioè proprio il gergo militaresco condiviso in quel luogo. Era curiosissimo. Ma adesso l'ascoltatore, se ancora in linea, ci può rispondere. Oggi il videogioco ha trasferito la letteratura, che è un esercizio appunto di impossessamento di una chiave poetica, una chiave di racconto, narrativa, elaborazione, in una realtà immersiva vera e propria. Il multiplayer, io vedo i miei figli che giocano a distanza con ragazzi che stanno in altre parti del mondo e sono appassionati come se fossero tutti nella stessa stanza, ti dà l'impressione che l'evolversi del supporto fa evolvere anche la capacità di usufruire di quel supporto. D'accordo, Alessandro? Anche perché il supporto dà la possibilità proprio di partecipare tutti insieme in cooperativa allo svolgimento di una stessa storia, quindi viene superato il limite fisico della distanza proprio da questa possibilità. Ma infatti vorrei aggiungere una piccola cosa: secondo me il merito di tutto questo arriva anche dai mezzi che sicuramente i produttori oggi hanno rispetto a quelli che avevano qualche anno fa. Basta guardare i titoli di coda di certi titoli per vedere che quante persone bravo, esatto, a livello di colonna sonora, sceneggiatura, cioè sono ormai delle produzioni che non ha niente da invidiare a quella dei grandi film. Guarda, lo diciamo come notizia, più volte è stata ribadita in questa trasmissione, visto che mi piace analizzare e studiare tutte le forme di comunicazione. Nel mercato globale dell'intrattenimento, quindi musica, film, il videogame è in testa. Si vendono nel mondo più videogame di film, di libri e di musica. Lei su questo, Alberti, è un po' preoccupata? No, non sono preoccupata. Stavo pensando appunto che ci sono delle cose che appunto per quanto mi riguarda, io sono molto legata, sono rimasta all'Ottocento e al Novecento, ovvero sia alla letteratura e al cinema. Io avrei paura di cioè se ci fossero stati i miei tempi mi sarei buttata e ne avrei goduto infinitamente, perché io penso, da donna antica, che l'elaborazione fantastica, la libertà della lettura sia ineguagliabile, in quanto che l'immagine è unica. Se tu un milione di persone leggono, ci sono un milione di elaborazioni. Però forse è così anche per questi, forse anche chi fa appunto il viaggio globale, il viaggio totale nel videogame, forse è la stessa cosa. Io sono rimasta molto per me c'è il libro ultimamente, per esempio, appunto ho letto il vero supporto per me è quello che poi ti accompagna, non per il momento. Quando ho letto Palude, di l'ultimo libro di Antonio Pennacchi, dove ti dà una illusoria ma straordinaria illusione che di superare la morte, di poter fare un passo verso questa tenerezza, questo umorismo, dove appunto quando muoiono si svolge Latina, l'aldilà è una Latina dell'infanzia. Questo mi ha accompagnato per dei giorni, come una specie di assoluzione. Ecco, non so se con un videogame tu puoi avere una coda di questo genere. Beh, io le dico, avendo dei figli in età da videogame, che in realtà il videogame ricostruisce con un supporto diverso tutte queste sensazioni. Mio figlio guarda con nostalgia, mi ha chiesto di ricomprare su eBay dei videogiochi della sua infanzia, quindi di 4 anni fa, capito? E li guardava con lo stesso religioso senso con cui io toccavo e sfogliavo i libri della mia infanzia. Guarda, Lara Croft, prima avventura Lara Croft, lo guardava e dice, guarda, vedi papà, dico, ma va, fa schifo, è un vecchio gioco, ma era bellissimo. E lo accompagna nella vita. Allora non avevano ancora inventato questa realtà, questo tipo di funzione del videogioco. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Queste via lì c'è la storia, storia fantastica e varia, nel paese delle meraviglie, Alice vi porterà, col permesso di mamma e papà. Sbirciato nel libro di mia sorella, ma è senza figure. A cosa serve un libro senza figure? Che noia! Potrei intricciare una ghirlanda di fiori. Che ridi, uomo senza cuore, senza passione. Giuseppe Sanzonna. Le fiabe sonore, un esempio lampante, che il mutare del supporto tecnico ha lasciato inalterata la poesia. Prima erano sul disco 45 giri, poi sulle cassette stereo 4, poi su DVD. Adesso le scarichi tranquillamente da YouTube, ma le fiabe sonore rimangono un supporto fondamentale per almeno 3 generazioni. Io le devo solo per il tuo sguardo perfido associato a questa voce flautata che era irresistibile, però in realtà c'era questa... Pinocchio fatto da Paolo Poli, mi sembra, era bellissimo. C'erano già i miei tempi questi. Pensa, a mille ce n'è di fiabe per sognare. Questo, mi ricordo, la visione accecata era meravigliosa, l'evocazione di un mondo altro. Che no, poi mi... Quante notti con le fiabe sonore accanto, miei figli, perché io ero già troppo grande. La paura, il cacciatore che doveva strappare il cuore a Biancaneve, c'erano tutte, tutto questo era vero, era lì, era immanente, era di una forza incredibile, evocativa. Forse anche il fascino per fare la radio è nato lì. Io non vorrei fare il luddista, dire una volta c'erano le vecchie favole così, però gli strumenti di intrattenimento dell'infanzia sono mutati notevolmente. È una delle cose più deleterie, mi diceva prima Barbara Alberti, gli darò tutto lo spazio necessario per il vituperio che condivido, è l'idea dell'entrata in gioco dello spettacolo, dell'animazione nel campo dell'infanzia. L'infanzia è un circolo sacro. Con i bambini non parlare, chi sa parlare, chi sa raccontare. Invece trasformano in un terrificante karaoke, talk per bambini, demenziale metodo di intrattenimento attraverso quella che viene chiamata l'animazione per l'infanzia. Ne sa qualcosa, Alberto? Sì, è terribile. Vai a queste feste di bambini. Allora, prima mi colpiva... C'è l'animatore. Quando raccontava prima Sansone e diceva dei suoi giochi, lui si riguardava e ricostruiva e si reinventava con niente, un bambino con niente. Cioè, come si fa ad animare la cosa più animata del mondo che l'infanzia? E vai a queste feste dove ci sono dei signori pagati per questo, che i genitori chiamano, tanto poco conoscono i loro bambini, tanto poco sono vicini all'infanzia, perché li animino, ovvero sia perché facciano una banale imitazione peggiorata di quello che c'è in televisione. E io vedo questi bambini annoiatissimi, poi appena l'animatore finisce, con uno zeppetto, con un niente, loro giocano. Io qui al faro, al piano di sotto, ci sono 2 stanze con un gradino. Ogni tanto vengono i bambini di Finisterre, io non do niente, do un vecchio scialletto, una maschera fatta con la carta, e in un minuto sorgono dei teatri straordinari, ma da soli. Io a malapena mi vedono, non so se mi spiego, e quindi io trovo terrificante questo atteggiamento dei genitori, appunto, che pensano che i loro bambini debbano essere animati come se fossero morti. Esiste dietro anche un turpe mercato emulativo. L'animatore di serie A è come mandarlo a un club mediterraneo, l'animatore di serie B, serie C, fino ai più sfigati. Sentiamo Vitalba. Ah no, aspetta, Maria Luisa prima Maria Luisa, più in tema. Maria Luisa. Sì, ciao. Buongiorno Maria Luisa. Buongiorno, riguardo i bambini, di cosa stavamo parlando? Sì, questo è il tema, certo. Tu devi, come ogni altra persona che è intervenuto, raccontare i tuoi supporti dell'immaginario. Se poi collima in qualche maniera quello stiamo dicendo, meglio, se no non c'è problema. Beh, di sicuro io sono appassionata di cinema e infatti vedo moltissimi film, così. Per riguardo bambini io non ho figli, sono single, ho 30 anni. Ma sei stata bambina? Sì. E mi ricordo che quando ero bambina io si giocava più magari per la strada, ecco, c'erano magari un pochino meno videogiochi, meno televisione. Li rimpiangi bei tempi che furono? No, però sicuramente se domani dovrò crescere i miei figli, cercherò di offrirgli quello che ho avuto io, quindi comunque tanta vita all'aria aperta. Potendo. Magari meno videogiochi. Cibo sano. Sani divertimenti, buone amicizie, infatti, un'ottima scuola, grandi insegnanti. Ho scoperto la vita di provincia, perché io sono nata in provincia, cresciuta in provincia, poi ho vissuto 8 anni a Milano, ho studiato, lavorato e poi sono riscappata a vivere in provincia, vivo a Lucca, che però è una bellissima città. Lucca è una grande città, dalle fantastiche assonanze per i paradisi che può offrire, figuriamoci. E quindi è a misura d'uomo e si crescono anche, credo, molto bene i figli qui. E quindi sei contenta? Vabbè, brava Maria Luisa, è una persona soddisfatta e contenta. Anche Madame Bovary ha iniziato così, poi si sdrucciola facilmente. Lei porta sempre fortuna, Nicoletti. No, epistofelico, se anche nel tuo. Sentiamo Vitalba. Vitalba ha un nome denso e pregno di speranza. Speriamo, di fatto mi rappresenta molto. Allora, cosa, Madame Bovary? No, il nome Vitalba. Ah, Vitalba. È vita e amore per la vita, e come tale. Beh, Dio, sembra la marca, uno di quegli yogurt che prende la Marcuzzi che sgonfiano, però. Vabbè, insomma, cerchiamo di essere a un altro livello. Oggi allora, è cattivissimo. Passione come espressione di vita, passione quindi per, in questo caso, per la ristorazione. Allora, evadere oggi, per noi che siamo sempre al di fuori di noi stessi, presi in una realtà che ci fa un po' perdere il focus su quello che siamo, ecco, evasione oggi per me significa rifocalizzarmi su me e sulla massima espressione di tutti i sensi. E in concreto che fai? Può essere una buona gastronomia. Cucini, ah, bene. No. Mangi. No, me ne guardo bene. Già passata la fase... Io pensavo al pranzo di Babette, cioccolato, tutto questo... Esatto. La grande buffata. Appartiene ad un'altra fase della mia vita. In questo momento invece mi interessa molto la ristorazione, la gastronomia, quindi studio accuratamente i locali da andare a visitare, da andare a testare, quindi vedo di che cosa si occupa. Ma sei di quelle persone che danno le stelle ai ristoranti? No, mi piacerebbe molto. In ogni caso ne scrivo dove capita, dai forum del Gambero Rosso a altrove, e dispenso consigli agli amici che mi chiedono locali a Roma per questa o per quell'occasione. Quindi diciamo, la tua attività fugace è semplicemente creare degli itinerari di fuga gastronomica per altre persone. Sei quella che traccia la via, l'esploratrice delle delizie del palato. Esattamente, per me stessa in primis, per cui è una scelta di gusto ed è una scelta di qualità, nel senso che decido di privilegiare la qualità, quindi frequento solo un certo tipo di ristoranti che vengono segnalati, anche nuovi, seguo molto i blogger di ristorazione. Ma gli spazi del tuo piacere dove stanno? Stanno nel piacere del gustare il cibo con tutti e cinque i sensi, nella dimensione intellettiva, quella preventiva alla visita al ristorante. Ascolti le ostriche come si ascoltano le conchiglie per sentire il mare. Scusi, è ingrassata? Prego? È ingrassata in questo esercizio? No. No, innanzitutto perché frequento una palestra in concomitanza e poi perché le scelte di gusto sono sempre delle scelte di qualità e non di quantità. E quindi come tale è impossibile ingrassare. Io a me quando una cosa mi dà gusto ne vorrei a quintali, a tonnellate, in maniera sproporzionata, non mi fermerei mai. La trasfigurazione dov'è? Non ho capito. La trasfigurazione, l'uscire da sé, entrandoci l'uscire magari da appunto. Sé. No, in realtà, come dicevo all'inizio, la trasfigurazione è l'entrare in sé. Cioè quello che oggi ci manca è la focalizzazione su di noi. Ma mancherà lei. Siamo in una realtà centrifuga, capisce? Quindi ma lei ha un maestro di vita in questo? No, al momento no, l'ho avuto in passato, quindi chi mi ha fatto apprezzare la ristorazione, la gastronomia, i cibi. Sentivi l'eco del superio per caso? Non ho capito. No, dice a me Sansone. Dunque la sigla, ci abbiamo molto apprezzato anche quest'ultimo contributo di Vitalba, che trova una via di realizzazione considerando e scegliendo per altri dei percorsi gastronomici. Il suo pagamento è nella felicità che procura agli altri. Altruistica posizione di vita che non condividiamo assolutamente, né Barbara Alberti né Giuseppe Sansone, almeno immagino io. Grazie al Fabrizio Intonti e a Valerio Rocchetti che ci hanno seguito in questa sgangherata puntata. Spero che anche loro abbiano occasioni di evasione dopo che la sigla è finita, per le vie che loro suggerirà la passione, l'istinto e la gioia. Melog 2.0. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.